Tempo di sport. Amici di Radio 24, buon pomeriggio da Massimo Callegari, Marco Lombardo in redazione, Fabio Cantadori in regia. Chi di voi è andato in Brasile o in Portogallo in vacanze per viaggi di lavoro e ha provato magari a farsi capire in spagnolo, mescolandolo a qualche accenno di portoghese, si sarà sicuramente sentito dire dalle persone locali, indigene, che parlava portugnol, cioè una via di mezzo tra portoghese e spagnolo. Ieri, ai microfoni di Radio Catalunya 1, Ariedo Braida, direttore generale del Milan, interrogato sulla possibilità di portare Ibrahimovic clamorosamente di nuovo in Italia in rossonero, ha inaugurato una nuova lingua intermedia, l'italgnol. Sentitelo. Ibrahimovic, io lo conosco bene, è un gran giocatore per me, perché lo conosco personalmente, è un gran giocatore, ma gran giocatore. Ma il problema è che nosotros, il Milan tiene 3, 4, 5 attaccanti. Per pedir un attaccante, un deve salire, un sale e un llega. Altrimenti non è possibile, perché tu hai, non puoi pedir 1, 2, 3, 5, 7, 10 giocatori. Stanno già 5, 6 attaccanti, perché sta Inzaghi, Boriello, Untela, Ronaldinho, Pato e per due posizioni o tre posizioni sta Mas. Bisogna che un sale e un niega. L'Ambreno è grande, per il Milan è una buona cosa, ma molto buona. Bisogna che un sale e un niega, insomma bisogna che uno parta e così uno può arrivare. Di certo in Spagna queste dichiarazioni, che ci hanno fatto un po' sorridere per la forma in cui sono state poste, ma che avevano una sostanza imprevedibile sino a ieri, perché la fonte è direttissima dall'interno del Milan, queste dichiarazioni hanno aperto un dibattito anche in Catalogna e a Barcellona. Oggi i due quotidiani locali si dividono in maniera totale, come sempre, non solo dal punto di vista dell'opinione, ma anche delle notizie che forniscono. Il Mundo Deportivo dice ok del Milan, e dunque Ibrahimovic ha avuto una risposta importante dal club che sinora non si era mai proposto in maniera diretta al Barcellona. I tifosi però sul sito del Mundo Deportivo dicono deve rimanere all'81% tra tutti quelli che scrivono sul sito, perché la rosa non è poi così ampia, è vero che è arrivato David Villa, ma Ibra ci serve. Sport, l'altro quotidiano di Barcellona, dice Ibra se queda, quindi rimane, perché si vede compatibile con Villa. Nessuno del Milan in realtà si è messo in contatto, secondo fonte del club del Barça, con il Barcellona, appunto. Altra cosa è se Raiola lo ha offerto al Milan, ma al 90%, dice Sport, Ibra rimarrà al Barcellona perché ha anche voglia di rivincita. Di questo, ma anche di Europa League, perché questa sera, dopo il debutto negativo europeo degli italiani di sera con la Samp, ci riproviamo in Europa League con Juve, Palermo e Maribor. Parliamo con un amico di Radio 24, collega della stampa, inviato a Graz, dove gioca la Juventus questa sera, Marco Ansaldo. Bentornato. Ciao. Marco, hai sentito dunque le parole in italgnol di Braida, Radio Catalunya, e ti aspettavi questa apertura, e quanto ti sembra una apertura mediatica e quanto invece una ipotesi realistica per questi ultimi 12 giorni di mercato? Il Milan ha sicuramente bisogno di comprare un grande giocatore, e Ibrahimovic ce lo è. Il problema secondo me è sempre un problema di quanto può investire il Milan. Insomma, Ibrahimovic ha un contratto pesante, importante, e poi bisogna vedere il Barcellona che cosa dispone per darlo via, perché se lo dà in prestito, se lo dà in qualche modo, diciamo, se si tratta di una delle ultime operazioni di stile Milan, cioè quelle tipo Ronaldinho, Beckham eccetera, forse si può anche fare. Se no diventa difficile. È anche vero che il Barcellona, secondo me, con Ibrahimovic c'è una brutta gatta da tirare in casa. All'interno già, dello spogliatoio, sì, quella è la prima cosa. E poi anche tatticamente, perché si è visto l'anno scorso che lui col gioco del Barcellona non c'entra proprio nulla. Da questo punto di vista tattico, appunto, credi che invece, al di là del suo essere totalmente decisivo in Italia, come ha dimostrato con Juve e Inter, si possa integrare con Pato e Ronaldinho? Questo onestamente non lo so, però bisogna anche vedere. Io ti dico onestamente che Ronaldinho credo pochissimo, Pato è sempre rotto, quindi probabilmente un giocatore di quel livello lì, di quella qualità lì, al Milan serve comunque. Poi come riuscirà a integrarsi con Pato e con Ronaldinho non lo so, uno dei due potrebbe anche non esserci. C'è già qualcuno, qualche ascoltatore in linea all'800 24 00 24, sms al 349 238 6666. Tra poco andiamo da Carlo da Pisa, che probabilmente ci vuole parlare di Europa League, ma prima ne voglio parlare appunto con Marco Ansaldo, che è inviato a Graz. Tu parli insomma di uomo di punta, questo è il titolo del tuo pezzo di apertura oggi nella pagina dello Sport della Stampa. Peraltro commenti, come abbiamo commentato noi ieri, la notizia della denuncia per oltraggio pubblico ufficiale di Amauri, ovvero adesso anche lui ha fornito la prova provata di essere italiano, avendo speso la frase "lei non sa chi sono io" con i carabinieri. Al di là di questa battuta, l'uomo di punta non è Amauri ma è Diego, che rimane quanto per volontà della Juve e quanto invece per mancanza di offerte reali? Allora, la Juve al momento la tolta dal mercato, ma sia chiaro che se arriva qualcuno con 20 milioni di euro lo rimette subito sul mercato e lo vende, quindi questo già ti dà una prima risposta, nel senso che l'idea di tenere Diego è maturata anche perché in effetti non è arrivata una contropartita accettabile. La Juventus ha pagato 25 milioni l'anno scorso, non può anche per ragioni di bilancio cederlo a una cifra enormemente inferiore. La seconda cosa è che la Juventus ha delle enormi difficoltà a trovare dei giocatori di qualità sul mercato. Io credo, l'anno scorso probabilmente sbagliai tutto, non capii nulla, perché mi esposi molto nel dire che Diego è un grande giocatore che sarebbe stato, diciamo, nella linea degli Zidane e così via nella storia della Juventus. Finora sono stato smentito in maniera feroce. Non eri l'unico, eh? No, probabilmente no, ma comunque io penso a me stesso. E ero rimasto incantato da come l'avevo visto giocare contro il Milan e l'Udinese l'anno precedente nel Werder Bremen. Io credo che lui possa ancora essere, se non il campionissimo che immaginavo io, comunque un giocatore di qualità. E sia chiaro, nella Juventus al momento la qualità è pochissima. Lui, nel Piero parte, rimane quello di maggior qualità. Quindi il problema è che rimane perché la Juventus non ha ricevuto delle offerte che riteneva adeguate, e rimane anche perché nella difficoltà di mercato, nella difficoltà di rintracciare sul mercato dei giocatori di qualità, l'idea di perdere lui francamente mi sembra un pochettino un rischio. L'ideale sarebbe che tornasse a giocare sui livelli del Verde Bre, ma allora la Juventus avrebbe risolto qualche problema. Ci sono già ascoltatori all'800 24 00 24, tra un attimo con loro. Ci sono sms soprattutto per Ibrahimovic, milanisti, interisti, inizia già la bagarre. Continuiamo a parlare un attimo di Juventus con Marco Ansaldo, che è inviato a Graz per la Stampa. Che attesa c'è in Austria per questa partita? Quanto si considerano credibili come avversari della Juventus gli uomini allenati da Foda, lo Sturm Graz? A sentire loro sono piuttosto convinti di potercela fare. Sono una squadra modesta, cioè non hanno grandi giocatori, è una squadra che vive con un budget di 8 milioni di euro all'anno, che non sono molti neppure per l'Austria, quindi sono una squadra modesta. Però il problema è capire la Juventus attuale cos'è e se possiamo già rintracciare nella Juventus attuale qualcosa della Juve del futuro. Ecco, questo è il dato di fatto importante. Io credo che questo turno la Juve debba passarlo, cioè se non lo passa è un fallimento totale. Che va poi a riflettersi su tutta la stagione in maniera proprio molto pesante, perché la gente, da quanto sento io, non è che sia molto soddisfatta di quello che è stato fatto finora. E quindi anche se, torno a dire, la nuova gestione si trova in una situazione difficilissima, forse più difficile di quanto pensasse, nel senso che con il giocatore, con il budget che ha a disposizione per il mercato, dovrebbe comprare dei grandi giocatori che migliorano la squadra e anche numerosi giocatori per integrarla, perché c'è tutto un gruppo di zavorristi, di giocatori di zavorra che dovrebbe essere fatto fuori, tra l'altro invece non si riesce a far fuori. L'ultima cosa ti chiedo, Marco, prima di salutarti. Ieri proprio voi sulla Stampa avete presentato per primi la ipotesi clamorosa che il centrocampista centrale della Juventus, il giocatore giovane più interessante prodotto negli ultimi anni dal settore giovanile bianconero, ovvero Claudio Marchisio, potesse trasferirsi all'Inter. Oggi addirittura la Gazzetta dello Sport parla di una possibile trattativa, di un'ipotesi, di un'idea di trattativa, cioè Burdisso più 15 milioni per Marchisio. Quanto c'è di vero? Ieri si parlava anche di una richiesta di aumento di ingaggio di Marchisio. Quanto è giustificata anche questa richiesta di aumento di ingaggio da parte del giocatore, che è vero, è molto promettente, ha iniziato molto bene, l'anno scorso però ha avuto delle difficoltà e al Mondiale ha fallito come tanti altri. Ma siamo sempre, io adesso non conosco esattamente la cifra che percepisce Marchisio della Juventus, però tutti, devo dire anche all'interno della Juventus, mi dicono che sostanzialmente lui va ancora avanti con un contratto che è stato fatto come viene fatto ai giovani che escono dalla primavera, che arrivano in prima squadra, quindi molto lontano da quello, non dico dei giocatori top, tipo insomma ovviamente, ma anche di quei giocatori che sono stati presi in seguito, che probabilmente sicuramente valgono molto meno di lui, gente da 2 milioni, 3 milioni di euro all'anno. Lui è molto lontano da quelle cifre e quindi anche la Juventus ho la sensazione che capiscano che devono in qualche modo adeguarlo, bene o male è un nazionale, è una faccia che viene spesa nella nuova Juve per far capire che ci sarà un cambiamento, anche queste sono cose che si pagano. Io non credo onestamente, anche se sono stato, come dicevi tu, il primo a scriverlo, che è la verità, cioè i suoi procuratori si sono già messi in contatto con i dirigenti dell'Inter. Io però non credo che la Juve se lo lascerà scappare e immagino che appena finito il mercato, cioè quando ci sarà un pochettino più di tempo per guardare queste altre situazioni, sia la sua situazione sia quella di Chiellini, che è un altro contratto da risolvere, verranno affrontati e in qualche modo risolti. Non riesco a capire come la Juventus possa partire da una cessione del genere. Grazie Marco Ansaldo, buon lavoro a Graz questa sera per Sturm, grazie Juventus. Grazie a Marco Ansaldo, collega della Stampa. Ci sono già messaggi SMS, alcuni anche ironici, su Ibrahimovic. Nel frattempo in diretta Sky Sport 24 è ritornato subito, immediatamente, non vedeva l'ora, Mino Raiola a parlare, e ha detto: non ci sono al momento alcune trattative con nessun club, le parole di Braida fanno piacere, ma per Ibrahimovic non c'è nessuna trattativa. Ci sono anche alcuni messaggi da parte vostra, c'è Gianfranco da Udine che è pronto a parlare credo anche di questo tema, prima però attesa lunga e dunque da esaudire di Carlo da Pisa, buon pomeriggio, prego. Buon pomeriggio a lei e a chi ci ascolta. Niente, io l'altro di questi tempi parlai proprio con lei e dissi che lo scambio fra Eto'o e Ibrahimovic era uno scambio a perdere. Non è che abbia sbagliato poi di grandissima lena. Ma perdere per chi? Per tutte e due, per l'Inter effettivamente insomma qualcosa ha fatto, però insomma no. Era vero, l'idea era quella, nel senso che entrambi sembravano più adatti alle squadre che lasciavano, cioè tu al Barcellona e Ibra all'Inter. Esattamente. Senta, le volevo chiedere una cosa, sì. Per vedere le partite della Juventus in Europa, come si chiama? Europa League. In Europa League, cosa bisogna fare specificamente? Perché io sono rimasto un po' male, ecco, su Sky non si riesce... Ma lei... Io esclusiva adesso... con Mediaset... Io non voglio fare adesso dell'autopromozione perché non sono qui per quello, però stasera sono lì proprio in studio io su Premium Calcio, quindi se vuole ci vediamo lì questa sera, e la Juventus è in esclusiva su Premium Calcio per il preliminare di Europa League, come è accaduto con lo Shamrock Rovers, e anche... per, come tutti ci auguriamo naturalmente, il tabellone principale. Grazie. Ci vuole un decoder, chiedevo. Penso di sì, certo, decoder digitale terrestre. Quello di Sky non basta, io posso vendere con il decoder di Sky, pagare la partita. No, quello non si può fare. Quello non si può fare, serve il digitale terrestre o il decoder, oppure una televisione con un televisore con la tecnologia integrata, insomma, dove inserire la testa. Adesso tornerei su questioni tecniche di calcio con Gianfranco da Udine, che vuole intervenire su Ibrahimovic. Prima gli leggo un paio di messaggi. Il primo di Roberto Dalodi, che dice: scusate, ma continuo a sentire che Ibra ha fatto male a Barcellona, ma quanti gol ha fatto, trovatemi un giocatore in Italia che abbia fatto i gol di Ibra il primo anno. Dunque, Ibrahimovic effettivamente l'anno scorso ha segnato 21 gol in 45 partite. È una buona media, 9 assist, una media praticamente di quasi un gol ogni due partite, 0,46. Però, come gli era accaduto all'Inter e alla Juventus, e anche all'Ajax, anche se lì era molto più giovane, nei momenti cruciali della stagione, a livello internazionale soprattutto, non è stato decisivo, come è sempre stato in grado di essere invece in campionato, in Italia e anche in Spagna, fino a questa primavera, perché aveva deciso, subentrando, ad esempio, il classico di andata tra Real Madrid e Barcellona al Camp Nou. Mentre Damiano da Reggio Emilia scrive: ma il Milan ha bisogno di Ibrahimovic? Borriello vale così poco? Al Milan serve un numero 10 forte, non un'altra punta. Da interista mi frego le mani se lo svedese va ai cugini. Dunque, è vero che Borriello è sottovalutato probabilmente in senso generale, però è anche vero che Ibrahimovic è un giocatore che è risultato individualmente più decisivo in questi anni nel campionato italiano, che il Milan è ancora una squadra, al di là delle qualità dell'allenatore che ha acquisito quest'anno Allegri, che punta molto sull'organizzazione, il Milan è ancora una squadra che gioca soprattutto sulle individualità, e quindi Ibrahimovic per questo sarebbe il giocatore individualmente più decisivo, forte fisicamente, in grado di risolvere anche delle partite in cui magari la squadra gioca sotto ritmo e in cui c'è bisogno di una scossa che arriva da lui. È vero che poi con Pato Ronaldinho la convivenza sarebbe tutta da verificare, soprattutto per chi sta dietro, se per chi sta dietro si intende tra gli altri Pirlo, che non ha più il dinamismo di quando Ancelotti lo arretrò nella posizione di centrocampista centrale. Gianfranco da Udine, buon pomeriggio. Eccoci qua, buon pomeriggio. Prego. Il problema è esattamente questo, che il Milan non è squadra. Cioè, come io parlo da milanista, milanese, ho sempre visto il Milan giocare anche nei ecco, il Milan di Sacchi era una squadra, perché aveva l'individualità, aveva i grandi campioni, ma esprimeva soprattutto un gioco corale, cosa che il Milan negli ultimi anni non fa. Cioè, praticamente abbiamo solo dei giocatori ottimi, per carità, ma vecchi, perché alla fine abbiamo tutti i giocatori che stanno invecchiando. E uno dice: oh, c'è Inzaghi, bravissimo, ma Ciusca c'ha 36 anni. E voglio dire, Ibrahimovic, bravo anche lui, ma è vecchio. Cioè, io punterei più a un... Ecco, Marchisio, quello andrebbe bene, ma perché è giovane. Sì. Ma Marchisio da solo non fa niente. Il Milan deve riprendere la mentalità da squadra, sennò alla fine sono un gruppo di miliardari che giocano a pallone però non si capiscono, non si parlano e vabbè. Però, mi scusi Gianfranco, io sono d'accordo con lei, ma se in questo momento non esistono i presupposti, non ci sono le basi non si trova il modo, per vari motivi, di ricreare una squadra, a questo punto Ibrahimovic è l'unico giocatore individualmente che può davvero cambiare il valore del Milan, o no? Chiaro, a 12 giorni dalla chiusura del mercato, sì, però questo è un discorso che andava fatto almeno 2-3 anni fa, almeno dal 2007, quando abbiamo vinto con molta fortuna l'ultima Coppa dei Campioni. Andava sviluppato un discorso che la Juventus sta facendo. Cioè, alla fine la Juventus, con molta umiltà e magari anche con pochi risultati, però almeno ci sta provando. Sta provando a ricostruire la squadra, cosa che invece noi non stiamo facendo. Campiamo alla bella con i nostri campioni, che per carità sono campioni, però Ciumbia sono vecchi, è tutta lì la storia. Le chiedo un'ultima cosa, perché mi piace sempre cercare di capire proprio dai tifosi qual è l'umore della piazza, del popolo, no? Rossonero in questo caso. Quando si è parlato di un'ipotesi di cessione di Ronaldinho, i tifosi del Milan, lei e chi con lei si trova a parlare di Milan, cosa pensavano? Era il momento giusto di darlo via, o era l'unico giocatore da tenere perché comunque serve lui anche in questo contesto di squadra? Ronaldinho serve, perché alla fine lui è la fantasia, l'estro, il guido. Magari in una partita dove le cose vanno storte lui azzecca la giocata e caccia dentro un gol della miseria. Però come si fa ad andare avanti sperando su Guizzi, sta sempre lì. Cioè Ronaldinho serve, perché per carità è una fabbrica di soldi, perché con tutti gli sponsor che si tira dietro, però nell'ottica di tornare grandi, ma grandi veramente, alla fine non ci serve, come non ci serve più Inzaghi, non ci serve più Pirlo, non ci serve più Gattuso, non ci servono più, ci servono ragazzi giovani che abbiano voglia davvero di far squadra. Grazie Gianfranco, a presto, buona estate, in bocca al lupo per la stagione del suo Milan. Naturalmente in questo contesto mi sembra che l'acquisto di Boateng, che comunque è un giocatore che si deve completare e formare, è una buona soluzione, in attesa appunto che poi lui maturi. Però serviva un po' di forza, un po' di capacità atletica in mezzo al campo, al Milan mancava da un po' un giocatore che potesse portarla, e lui ha queste caratteristiche, oltre anche a una buona capacità di inserimento al tiro. Chiedo un po' di pazienza a Nino da Pescara, che è pronto in linea, lo sentiamo dopo le borse in diretta. Però prima una domanda di Nicola di Alessandria, che dice: come ha giocato Cassano ieri? Stando alle valutazioni dei quotidiani sportivi, un disastro. 2-4, 5, 5,5, fumoso, effettivamente deludente dal punto di vista della sua prova, della personalità, ancora una volta purtroppo in un grande appuntamento contro una squadra buona o di alto livello non è stato in grado di imporsi e di essere determinante. Al contrario, prestazione da campione probabilmente a questo punto, il termine è pesante, ma ieri davvero c'erano questi lampi di Giampaolo Pazzini, un palo, un gol annullato, un altro gol formidabile in sospensione di testa al 90esimo, che è quello che tiene in corsa e in vita la Sampdoria. E chissà Prandelli a questo punto che pensieri ha avuto ieri sera quando ha visto Pazzini, sia perché l'ha fatto andare via da Firenze, sia perché non l'ha chiamato alla sua prima in nazionale. Controlla il pallone, ma glielo soffia Quagliarella. Avanti Masaniello, zona cross, traversone, sotto porta, attenzione di testa, ad Arrata, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Marechiaro, Marechiaro, anzi, ha gonfiato la rete, ha gonfiato la rete, Marechiaro Hamsik si è riavuto dal torpore. Benedetto ragazzo e benedetta primavera che ti ha tolto dal letargo, aggiustati ancora il ciuffo e mostraci il sorriso, questa foto la portiamo in Europa! Questa foto il Napoli la porta effettivamente in Europa questa sera al San Paolo contro gli svedesi dell'Helsborg. Era Raffaele Auriemma, voce storica di Napoli e del Napoli, da qualche anno ormai telecronista tifoso su Premium Calcio per le partite del Napoli, è con noi, carico per il primo appuntamento europeo della stagione. Bentornato Raffaele, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Massimo, buon pomeriggio a tutti e chiaramente bentornata Europa, perché il Napoli c'è finalmente da stasera. Il Napoli c'è e c'è anche il San Paolo. La prevendita in questo momento a che punto è? Fino a ieri erano 30.000, credo che questa sera si arriverà abbondantemente a 40.000, ma con punte prossime ai 45.000, perché c'è un'ondata di entusiasmo tale che ha riportato molti vacanzieri in città proprio stamattina, ancora code ai botteghini per accaparrarsi il biglietto per la prima d'Europa, una vetrina d'eccezione per il Napoli, riportato da Mazzarri ai vecchi fasti e prossimo ormai all'accesso alla fase a gironi, che poi significherebbe realmente frequentare il palcoscenico europeo fino a metà dicembre. Noi ce l'auguriamo, molto dipende chiaramente dalla partita di questa sera. Molto dipende dalla partita di questa sera, naturalmente ci sono altri ascoltatori all'800 24 0024, tra poco torneremo da loro, però è importante, interessante capire anche dal punto di vista tecnico questo Napoli, quanto soddisfa le aspettative dei tifosi. Ho sentito qualcuno dire Cavani è un acquisto mediaticamente eccezionale, ma non è il giocatore con le caratteristiche ideali che servivano al Napoli, avremmo preferito un centravanti di peso per esaltare Quagliarella e Lavezzi. Cosa ne pensi e quali sono le sensazioni che hai ricevuto tu anche dai tifosi? Sì, indubbiamente le sensazioni sono identiche. però quando mi propongono lo stesso quesito oppure mi espongono queste perplessità sulle caratteristiche di Cavani e sulla necessità di comprare un bomber centrale, insomma, no, io poi chiedo loro: ma quale sarebbe l'attaccante centrale che il Napoli avrebbe dovuto acquistare? E nessuno mi sa dare risposte, perché poi chiaramente si entra in una sfera e in un meccanismo di mercato nel quale fanno fatica ad entrare anche i grandi club, perché per esempio si parla tanto di Dzeko, che valutato 40 milioni, che è una bella cifra, ma nessuno lo ha comprato. È vero. Quindi vuol dire che il colpo del mercato finora l'ha fatto il Napoli, perché ha preso un attaccante che sa svolgere tutti i ruoli e probabilmente farà anche la punta centrale del Napoli, perché ha la classe giusta per integrarsi in questo contesto di squadra, in una squadra che tra l'altro, e rientriamo appunto nell'argomento Napoli-Elfsborg, sì, una squadra che è la stessa della passata stagione, quest'anno, o meglio, stasera non ci sarà in campo nessun nuovo volto, né Blasi né Cavani, perché Mazzarri vuole insistere su chi ha conquistato, perché dà ampie garanzie e soprattutto, io lo dico anche a quelli che hanno delle perplessità, il Napoli pur senza Cavani era già una squadra solida, valida e pronta ad affrontare l'Europa League con la convinzione e la certezza di poter andare avanti. Questo è verissimo, vale questo discorso anche per un'ambizione di Champions in campionato, cioè per un quarto posto di cui l'anno scorso si è parlato solo parzialmente e che poi potrebbe essere un obiettivo più realistico in questa stagione o chissà nella prossima per il piano, cos'era, quinquennale, qualcosa di più di De Laurentiis? Sì, De Laurentiis ci vuole arrivare in 3 anni alla Champions, però bisogna anche dire che il Napoli l'anno scorso in zona Champions c'è stato per diverse giornate del campionato, tra il terzo e il quarto posto, a conferma che con un po' di esperienza in più, perché quella è mancata soprattutto nella scorsa stagione, questa squadra può ambire ad un posto tra quelli che contano, anche perché a conti fatti e guardando il mercato, Inter a parte che tra l'altro non ha acquistato nessuno finora, no? Ci sono tante altre ottime squadre, tra cui anche il Napoli, perché a parte il Genova e la Juve che hanno speso tanto e secondo me neanche benissimo, ma poi c'è la Roma che ha fatto la politica degli ingaggi e degli acquisti sui parametri zero, la Fiorentina che tranne D'Agostino non ha fatto grandi squilli di mercato e tra l'altro ha perso anche Jovetic per 4-5 mesi. Sì. Quindi il Napoli, che era già una realtà nello scorso anno, perché è giusto ricordarlo che ha battuto 2 volte la Juve e tra l'altro su molti campi avrebbe meritato anche più del semplice pareggio, il Napoli con l'inserimento di Cavani e mi permetto di dire che da qui al 31 agosto il mercato è ancora aperto e sono straconvinto che con un risultato positivo già questa sera, magari anche una vittoria larga, De Laurentiis potrebbe annunciare il mediano che Mazzarri sta reclamando da un po' di tempo. Quindi, ci sono dei nomi? Ci sono dei nomi, Raffaele, che girano? Sì, il nome secondo me principale è quello di Inler, anche se non gira tanto, proprio perché evidentemente così come per Cavani il Napoli vuole fare il colpo a sorpresa prendendo Inler, che è un obiettivo dichiarato. Però dopo la sconfitta di ieri della Samp in Champions, questo 3-1 che per carità è rimediabilissimo al ritorno al Ferraris, ma qualora la Samp dovesse malauguratamente uscire dalla Champions, io credo che il Napoli un assaltino a Palombo proverà a farlo. Ah. Quindi questo potrebbe essere il grande nome, la grande sorpresa e il colpo finale che De Laurentiis potrebbe regalare ai tanti tifosi che fino a questo momento non è che sono delusi, però sono perplessi, come giustamente sottolineavi tu in precedenza. Però questa sera ci sono e ci saremo naturalmente anche noi per seguire il Napoli contro l'Habsburg al San Paolo con Raffaele Auriemma. Grazie, buon pomeriggio e buona serata, Raffaele. Grazie presto. A te, Max. Buon proseguimento e ci risentiamo stasera. Grazie a Raffaele Auriemma, voce storica del Napoli per Mediaset Premium. Un po' di messaggi, ma soprattutto un po' di telefonate in apertura, anzi in chiusura di questo blocco, di questa terza parte, perché Nino da Pescara e Andrea da Modena attendono da qualche minuto. Li ringrazio per l'attesa. Nino da Pescara, prego. Buongiorno. Buongiorno, dica. Salve. Niente, volevo rispondere a due domande. Una su Ibrahimovic e l'altra su Cassano. Mi sente? Sono dentro il tunnel. Pronto? Sì, la sento, un po' intermittenza, però la sento, dica. Ok, ok. Allora, la prima su Ibrahimovic. Io penso che Ibrahimovic non serva al Milan. Cioè, e come ha detto il signore di prima, ormai ha una certa età. Non può, ha 28 anni, però. C'è stato qualcuno, infatti, che ha scritto SMS, ha detto 20 anni, non è vecchio, 82. 28 anni che si equivalgono a 34, 35 anni di calcio. Per me sì, con tutti gli anni che ha giocato, per me 28 anni, lui non servirebbe al Milan. Noi in Italia dobbiamo rifondare un po' il calcio e buttarci sui giovani, specialmente queste grosse squadre che spendono un sacco di soldi. Purtroppo io sono tifoso del Bologna. No, beh, perché purtroppo? Quest'anno c'è un nuovo entusiasmo. Sono due anni che soffriamo. Dai, quello è vero. Abbiamo sempre all'ultima giornata o la penultima giornata. Speriamo che questo qui che è venuto ci porti un po'. E sta facendo una buona politica dei giovani. Infatti, l'altra cosa di cui voleva parlare, Nino, poi diamo spazio anche agli altri. Cassano non è un fenomeno, non è mai stato un fenomeno. Mai, l'abbiamo gonfiato tanto, non è stato convocato questo in nazionale. Cassano è un giocatore normale, di un livello normale. Non può lui fare una differenza, non può fare la differenza in una squadra. Non è normale, noi gonfiamo troppo i giocatori, come abbiamo fatto con Amauri. Amauri è un centravanti che ce n'è tanti in Italia. Ma ce n'è tantissimi in Serie B, in Serie C con Amauri. Non esageriamo. Dobbiamo gonfiarlo, dobbiamo chiamarlo in nazionale e dobbiamo... No, Amauri è un giocatore normale. Come bene, bene. Tanti. Grazie. Grazie, Nino. Grazie Nino da Pescara. Beh, insomma, Serie B e Lega Pro non proprio. Certo, per dire, quando Amauri stava per passare alla Juventus si era accennato anche un'ipotesi di ballottaggio con il Milan, che ambiva ad avere l'ex attaccante del Palermo. In quel momento qualche perplessità personalmente l'avevo, però devo anche dire che c'erano colleghi molto stimati con i quali parlavo, che erano invece convinti che Amauri potesse diventare un giocatore decisivo anche ad altissimo livello. Dal punto di vista fisico ha delle qualità incredibili, dal punto di vista della personalità un po' meno, e oltre a questo è mancato proprio nella maturazione e nella parte finale. Oltre a questo va sempre ribadito che è vero, ha ragione chi dice, è comunque un giocatore che per la nazionale brasiliana non è mai stato considerato, e il suo nome per l'Italia è emerso nel momento in cui Amauri e il suo staff, i suoi agenti hanno capito che Dunga non lo avrebbe mai chiamato, e dunque a quel punto si è attivato in maniera decisa l'iter per la naturalizzazione di Amauri. Andrea da Modena, ancora qualche istante di pazienza dopo il traffico. Ci sono però prima un po' di SMS interessanti su Cassano. Fede D'Alessandria dice: si è istituito un processo sommario a Lippi, che lo meritava, ex ante e non ex post, cioè prima e non dopo quello che si è visto. Mondiali per l'esclusione di Balotelli. In generale sono d'accordo, nel senso che se ci fosse stato uno spazio da occupare in nazionale, personalmente l'avrei occupato con Balotelli, con tutte le difficoltà della gestione del carattere, della personalità del ragazzo in un 40-50 giorni con tutti gli altri in ritiro e in Sudafrica, piuttosto che su Cassano. ci sono anche, diciamo, prove scritte di questo pensiero, nel senso che qualche tempo fa ci fu un ragazzo che contattò tanti giornalisti, tra cui sottoscritto, per fare una tesi di laurea sul caso Cassano, ovvero la gestione del gruppo, il talento all'interno del gruppo, come va gestito, una cosa molto interessante e curiosa. Ci fu anche un articolo di Luigi Garlando su questa tesi, e il mio pensiero era quello che si è verificato un po' anche ieri, ovvero che Cassano in nazionale aveva già giocato 2004 e anche 2008 agli europei, aveva fatto abbastanza bene in alcuni momenti, non altrettanto in altri, però poi così decisivo come lo è stato con la Sampdoria o con la Roma contro squadre medio-piccole non lo era mai stato nei grandi appuntamenti. Vediamo, adesso diamogli ancora una possibilità al ritorno magari contro il Werder Bremen, sperando che possa essere all'altezza e possa essere determinante. 800 24 0024 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i messaggi, tra i quali ad esempio quello di Luca da Verona che dice: quando la Samp ha pescato il Werder tutti abbiamo detto che c'era di peggio. A conti fatti, i tedeschi mi sono sembrati la squadra più forte vista nei preliminari. Purtroppo perderemo già una squadra. Effettivamente il Werder ha giocato un'ottima gara, meglio del Tottenham, ad esempio, che ha sofferto moltissimo sul campo sintetico, peraltro, di Berna contro lo Young Boys, ma è riuscito poi a rimediare parzialmente da 0-3 a 2-3 nel secondo tempo. E anche altre squadre, come il Siviglia, ad esempio, che ha affrontato un ostacolo comunque duro, come i portoghesi del Braga, non sono stati all'altezza del Werder. Il Siviglia ha perso 1-0 in Portogallo e al ritorno non sarà semplice recuperare questo risultato e qualificarsi al tabellone principale. Ci sono altri sms ancora su Ronaldinho, Ibrahimovic e sul Milan, tra poco rispondiamo anche a questi. Marco da Pesaro lancia un'idea sul Napoli: Trezeguet o Huntelaar andrebbero benissimo per l'attacco, con naturalmente dei limiti ancora sulla disponibilità fisica di Trezeguet e sulle qualità complessive di Huntelaar, soprattutto in un meccanismo tattico come quello di Mazzarri. Però ora Andrea da Modena, all'800 24 00 24, prego. Buongiorno, io volevo dire una cosa sul mercato della Juve, che insomma fino adesso non è che mi abbia entusiasmato più di tanto. E sento che insomma ci si incaponisce, si sono incaponiti con questo attaccante, questo Dzeko, ma io penso che tutto sommato poi il problema della Juve non sia quello dell'attaccante solo, cioè io penso che manchi della qualità. Io non riesco a capire perché non ci si butti su un giocatore come Pastore, che per me è probabilmente il più grosso talento che c'è in circolazione. È vero, penso che costi moltissimo. E facciamo degli sforzi, insomma, ci sono a Mauri e Diego da poter dare in blocco al Palermo, via. Bisogna vedere se loro li vogliono, perché non è fatto. È uno scambio. Non se lo prendono più, lo dico io che non se lo prendono più. Ma lei se lo aspettava così alla Juventus? Quando l'avete acquistato dal Palermo, se lo aspettava così? No, sono onesto, mi aspettavo di più, ma vederlo anche l'altro giorno, adesso vabbè siamo all'inizio della preparazione. Dove, a Modena nel preliminare l'ha visto? No, io sto parlando proprio del trofeo, okay. Penso che sia cioè veramente imbarazzante. Io capisco che gli arrivi anche poca roba, cioè non è che gli arrivi delle cose di qualità, ecco, per questo sto pensando più che manca un giocatore, paradossalmente la Ronaldinho, cioè un giocatore che gli possa innescare le punte con delle palle di qualità, ma questo è veramente imbarazzante. È un bel regista, non manca un bel regista. È un bel regista, io vedo solamente un Pastore, o non abbiamo Cassano che fa assist, noi non abbiamo un Ronaldinho, non ce l'abbiamo, e non vedo in circolazione gente che possa fare cose del genere se non il mio Pastore. Vabbè, vedremo stasera anche Pastore all'opera in Europa League con il Maribor. Grazie Andrea da Modena. Sorrido perché Marco dice: il folcloristico Auriemma non ha esitato a tirare la gufata alla Samp pur di portarsi a casa Palombo. E d'altronde ognuno la vede dalla sua prospettiva. Certo, un altro ascoltatore, Enrico da Novara, scrive: se la Samp dovesse essere eliminata, la Juve cercherebbe Pazzini. È chiaro che la Samp non può privarsi insieme di entrambi i suoi migliori giocatori, in una situazione e in una stagione che saranno molto difficili in ogni caso, sia che proceda in Champions, sia che non arrivi al tabellone principale, perché la squadra ha una rosa simile a quella dell'anno scorso, alcuni giocatori devono arrivare a una consacrazione definitiva, penso ad esempio a Poli che però parte da ottime basi, c'è il cambio di allenatore, Di Carlo ha una mentalità diversa rispetto a Del Neri, un po' meno spregiudicata, più legata alla compattezza della squadra che alle folate e all'entusiasmo anche in alcune fasi della stagione, quindi non può la San privarsi di entrambi. Certo, all'inizio del mercato una voce che era, aveva trovato molti riscontri era quella di Pazzini alla Juve, prima o poi Pazzini alla Juve, poi Marotta, Del Neri, Paratici, questo passaggio in blocco da Genova alla Juventus ha sicuramente incrinato i rapporti tra i club. Garrone ha detto al 100% Pazzini non va alla Juventus e neanche Palombo, vedremo se Palombo andrà al Napoli, di Pazzini si era parlato anche per il Napoli, insomma, vedremo. Gianluca da Napoli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Niente, io volevo intervenire praticamente sul caso Ibrahimovic. Sì. Niente, penso che non capisco perché il Milan scelga ormai stelle cadenti, è partito da Ronaldinho, poi Beckham, adesso Ibrahimovic, cioè, giocatori ormai penso di fine carriera. Penso che dovrebbe puntare più su giocatori italiani come Borriello, ce ne sono tanti altri. Non capisco perché le squadre italiane tendano sempre a giocatori stranieri. Questa è la cosa che non capisco. Sì, neanche tanto giovani, come dice lei, anche se io non sono d'accordo che Ibra sia a fine carriera, anzi, perché alla fine al Barcellona ha fatto ben poco. E dopo quello che ha fatto all'Inter, secondo me una squadra prima di prenderlo dovrebbe pensarci un po' di volte, perché secondo me si diventa più mercenari che giocatori, perché una squadra si deve amare per poterla portare avanti, altrimenti si rischia di non fare nulla, anzi di fare brutte figure come ha fatto al Barcellona. Sì, ma io penso che bisogna puntare molto su giocatori italiani, altrimenti poi non ci meravigliamo se al mondiale ci troviamo senza fuoriclasse e senza giocatori, perché poi ormai il calcio italiano secondo me è fatto del 60% di giocatori stranieri, si punta poco sulle promesse giovanili, tutto il resto insomma. Sì, sì. No, comunque il Milan qualcuno di giovane ce l'ha, abbiamo visto anche in questi giorni, insomma, Allegri che ha motivato i suoi giovani ragazzi della primavera, non tutti sono italiani di nascita, ma sono cresciuti non solo calcisticamente in Italia e quindi vanno considerati comunque prodotti del calcio italiano in senso lato, del settore giovanile perlomeno di quella squadra. Penso e spero che si arrivi ad esempio a una soluzione tipo quella di quest'anno della Premier League, con una lista chiusa di 25 giocatori in cui c'è un numero minimo anche piuttosto alto di ragazzi che devono essere cresciuti calcisticamente nel paese, quindi anche se non nati in Inghilterra nel caso della Premier, però devono essere da 3 anni mi sembra almeno nel campionato inglese, nel calcio inglese, aver giocato nel settore giovanile, molti di questi devono essere under 21. Penso e spero che tra le poche cose che ha fatto e farà, chissà, la federazione assieme alla Lega, chissà chi è che deve decidere questo, debba essere fatta una scelta di questo genere. Ultime due cose. La prima, prima di passare ai motori, un sms di un ascoltatore che non si firma, che dice che Real ha fatto o non ha fatto, non capisco, un grosso affare pagando solo 15 milioni un 21enne che è stato protagonista dei mondiali, cioè Ozil, mentre il Manchester City ha speso il doppio per uno che non ha dimostrato neanche la metà. Un grande affare che ha fatto l'Inter, quindi affare per l'Inter che ha ricevuto quasi 30 milioni per Balotelli, e affare credo anche per il Real, almeno dal punto di vista, per 15 milioni di Ozil, pagati per Ozil. Daniele da Ravenna, velocissimo, poi chiudiamo con i motori, prego. Salve, io abito a Ravenna ma sono di Palermo. Ah. Io quando sento parlare di Amaury così mi viene veramente la pelle d'oca. Mi dica, sono curioso. Io credo che sia uno dei più forti attaccanti che abbiamo in Italia. Amaury a Palermo in 2 anni ha fatto più di 30 gol. È arrivato alla Juve, ha fatto 13 gol e poi si è infortunato a gennaio, è stato 2 mesi e mezzo fermo e ha avuto questa sfiga qua. L'anno scorso la Juve non fa testo perché era una squadra che non giocava, ma tutta la Juve, non solo Amaury. Adesso ci hanno le colpe Amaury. Amaury è uno che fa reparto da solo. Secondo me anche il ruolo che gli danno a questo ragazzo è sbagliato. Lui è uno che deve spaziare destra e sinistra. Io ho visto dei gol di Amaury, uno a Firenze, Favoloso, sì. Prima di infortunarsi praticamente, sì. Poco dopo si infortunò, sì. Lui ha avuto sfiga, ma è uno dei più forti attaccanti che abbiamo in Italia. Poi tutte cose veloci, voglio dire, se possibile. Parliamo di affari Real Madrid, che Real Madrid ha regalato al Bayern... Robben. E Snyder all'Inter. È vero. In realtà, a fare è meglio che non ne parliamo. Vabbè, però non è che gli si può togliere quello che hanno fatto adesso per gli errori che hanno fatto in passato. Gli errori del passato sono stati riconosciuti e acclarati e criticati. Adesso sembra che la politica sia cambiata. Credo, dal mio punto di vista, che Mourinho in questo senso abbia avuto un impulso importante, lo abbia dato, perché ha acquistato giocatori non solo molto giovani, al di là di Carvalho, tutti under 23 o al massimo di 23 anni, ma anche funzionali al progetto tattico della squadra e non solo dal punto di vista del marketing mediatico, utili ad elevare ulteriormente il marchio del Real Madrid. In questo senso, Khedira è un grande acquisto, il giocatore tedesco dello Stoccarda. Riccardo Carvalho è un difensore esperto, serviva anche quello a Real Madrid al centro della difesa. I motori per chiudere. Eni vi presenta Sport e motori. Uno stato dell'arte in diretta, in estrema sintesi, in un minuto e mezzo da Mario Poltronieri. La Formula 1 in attesa del ritorno in pista tra due domeniche a Spa-Francorchamps. Bentornato Mario, a te. Eccomi, grazie. Diciamo che fra 10 giorni esatti, cioè il 29, riprendono i due campionati del mondo motoristici più importanti, cioè la Formula 1 a Spa, in questo circuito di antica tradizione, uno dei pochi che è rimasto rispetto agli attuali, che sono più che altro disegnati al computer. Per quello che riguarda la moto invece c'è la grande notizia di Valentino alla Ducati, mentre per quel che riguarda il campionato del mondo si correrà a Indianapolis, ma non è che si possa pensare della situazione ai tempi, nel senso che Lorenzo, che ha vinto 7 gare e più 3 secondi, cioè in tutte le gare disputate fino adesso, ha chiaramente un tale margine di vantaggio che è difficile che possa essere raggiunto dagli inseguitori. Bisognerebbe che avesse un incidente che non gli consente di fare tutte le gare, e che non gli auguriamo chiaramente. No, ovviamente. Formula 1 in 30 secondi, Mario. Questa superiorità di Lorenzo è anche sotto sotto la ragione perché Valentino ha deciso di andare alla Ducati, perché lui aveva a suo tempo chiesto il muro tra i due, sì, box, ha capito che la Ducati puntava sul 22enne piuttosto che sul 31enne, e allora ha capito che la mossa Ducati, che sarebbe piaciuta tra l'altro a tutti gli italiani, era anche un'occasione per dimostrare le sue capacità e di preparazione della vettura, perché Ducati, sì. Mario, ti devo interrompere perché non abbiamo più tempo. Ci sentiamo domani con un po' più, sì, di margine, così certamente parliamo ancora di questo e anche di Formula 1 magari. Perfetto. Va bene, grazie, scusami per queste necessità, ma il tempo stringe. Grazie a Marco Lombardi in redazione, a Fabio Cantadori in regia. A domani con una sorpresa che non vi preannuncio, ma che mi interessa molto, mi sembra molto molto accattivante per l'ultima puntata della settimana da Tempo di Sport alle 14. Buon pomeriggio su Radio 24 da Massimo Callegari. A Tempo di Sport.